Thank you. is my is che fosse e ma lì sminia qui la mamma si le mi si fa poi mi può mi ma sarì ma la ma c'è mi non si ne mi come a sarì mi si mi ma ma pa e mi più a sarì ma non mi si ne mi ne mi ha e a sarì ma ma si ne mi si ne mi ne pata e gli che da pa e ne dai si me ne Oh,